Dallo scorso maggio in Emilia-Romagna la contraccezione è gratis per gli under 26, un provvedimento sicuramente encomiabile, però sembra difficile riuscire ad usufruirne. Le modalità per accedervi sono tortuose e complicate, e a testimoniarlo abbiamo appunto Ilaria, un'attivista di Non Una Di Meno, che su questo tema insomma ha scritto anche un post, è al telefono con noi, la saluto, buon pomeriggio. Ciao, grazie per avermi dato la possibilità di parlarne anche qui, insomma. E sì. Io avevo letto proprio queste notizie sui giornali, quindi contentissima, finalmente in Emilia Romagna non devo più pagare la pillola. E però vado a guardare un po' appunto cosa devo fare per poter non pagare più la pillola. Innanzitutto ho dovuto prenotare una visita in un consultorio, e io, essendo ancora nucleo familiare con i miei genitori, pago il ticket a prezzo pieno, quindi insomma già le attese del CUP, le attese per avere questa visita, in più ho pagato il ticket. E a quanto ammonta il ticket? Scusami, non è per farmi i fatti tuoi, però. 3 euro. Ok, quindi 2 mesi di pillola sicuramente sono andati così. Esatto, sì, esatto. E gli unici spazi in cui avrei potuto prenderla senza dover pagare il ticket, cosa che però ho scoperto ieri, sono i consultori in cui c'è lo spazio dedicato ai giovani adulti. In tutto il comune di Bologna c'è un solo consultorio con questo spazio, e a quanto mi hanno detto è aperto una sola mattina a settimana. Ho provato a cercare su internet, ma io non riesco a reperire informazioni su questo servizio fornito dal consultorio di Bologna. Quindi niente, io ho prenotato la mia visita pagata, sono andata a farmi la visita, e effettivamente mi hanno dato 2 scatole di pillola gratuitamente e la ricetta per poterla prendere anche i mesi successivi. Quindi io, tutta contenta, sono tornata dicendo: wow, adesso mi faccio 2 mesi così, poi fra 2 mesi con la mia ricetta già pronta posso prendere la pillola. E ieri infatti è giunto il momento di comprare una nuova confezione, e mi sono trovata in un'odissea per riuscire a capire dove potevo effettivamente ritirare una confezione di pillola gratuita, perché sono andata in farmacia, ma in farmacia non accettano questa procedura perché non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, la farmacista non era neanche bene a conoscenza della legge, e quindi sostanzialmente mi ha detto che sicuramente nelle farmacie, insomma quelle normali che si trovano in giro, non vengono dati contraccettivi gratuitamente. Mi ha consigliato quindi di andare in farmacia ospedaliera, le farmacie dell'azienda ospedaliera, quindi quella del maggiore ad esempio, e dovrebbero appunto aver attivato questa procedura. In realtà ho fatto una telefonata e neanche le farmacie dell'azienda ospedaliera rilasciano gratuitamente i contraccettivi, e mi hanno consigliato di andare al consultorio. Io quindi sono andata al consultorio, non quello dove avevo fatto la visita, dando per scontato che qualsiasi consultorio andasse bene, e di nuovo mi sono vista rifiutata la possibilità di prendere la pillola perché non era il consultorio dove mi era stata rilasciata la ricetta. Quindi, armata proprio di pazienza, arrivo lì di nuovo dove avevo fatto la ricetta, e ancora mi viene negata la pillola perché la ricetta scade a fine mese, quindi dovevo tornare per fare una visita ginecologica nuova in cui mi avrebbero rinnovato la ricetta. Di fatto non mi fanno neanche la visita, semplicemente mi firmano di nuovo lo stesso foglio che ho già con una data diversa. Questa è la vera e propria odissea che hai vissuto, che in termini di tempo e anche economici ne vale la pena? Questa è la domanda che ti faccio. Sostanzialmente io ho passato 3 ore in giro per... Fortunatamente ho l'abbonamento dell'autobus, quindi almeno i biglietti ce li avevo già compresi nell'abbonamento. Ho pagato 23 euro di ticket per avere 2 confezioni di pillola gratuita, che a questo punto vado in farmacia con 29 euro in 2 mesi me la cavo, e ce l'ho sotto casa e non devo fare questo a tiritero ogni volta. La riflessione riguarda non solo la misura, ma anche la sua accessibilità, cioè appunto si può dire preservativi o contraccettivi, pillola, insomma gratis per gli under 26, ma se poi per ottenerli la procedura è questa, è così complicata, è così faticosa, rimane forse più, come dire, uno slogan politico? Esatto, infatti il ragionamento proprio che mi è venuto da fare, che ho condiviso anche con le mie compagne di Non Una Di Meno Bologna, è stato proprio questo, che sì, è bellissima la legge, però se poi è inaccessibile, e tra l'altro è inaccessibile per me che comunque sono studentessa, quindi ho molto tempo, sono residente a Bologna, ho un una macchina a Bologna, quindi eventualmente avrei anche un mezzo per spostarmi, figuriamoci quanto è inaccessibile anche per tante altre persone che magari non hanno tutti questi privilegi che ho io. Infatti, per esempio, la legge è solo per chi è residente in Emilia Romagna e tante rimangono, e anche tanti rimangono fuori, perché a Bologna, che è una città universitaria in cui magari molte vengono a studiare, ma in realtà non solo, tanti si trasferiscono anche per lavorare e non hanno la residenza, non possono accedere a questa misura. In più, per molte studentesse è proprio difficile poter avere la residenza a Bologna, perché perderebbero la borsa di studio come fuorisede. Quindi, insomma, sì, sicuramente c'è tanto da migliorare, sia in termini di accessibilità sia proprio in termini di contenuto della legge, che va resa il più universale possibile. Quando abbiamo letto il tuo post siamo andati un po' a documentarci, appunto, come dicevo prima, questa legge è stata approvata nel maggio scorso, è diventata operativa nel maggio scorso, e a giugno, quindi un mese dopo, Claudio Veronesi, che è il responsabile dei consultori di Bologna, diceva appunto che la pillola veniva distribuita in quel momento in consultorio, ma dopo qualche tempo, dopo qualche mese, sarebbe stato possibile ritirarla anche nelle farmacie ospedaliere. Tu ci hai testimoniato che, insomma, questo tempo ancora non è passato, nel senso che esatto non è ancora entrata a pieno regime, anche se oramai sono passati 7 mesi. Sì, infatti, appunto, tutto il clamore poi evidentemente non è stato seguito da una reale attivazione dei punti di erogazione dei contraccettivi gratuiti. E va bene, speriamo che innanzitutto questa tua segnalazione serva un po' a smuovere le cose, e poi staremo a vedere. Noi ne parleremo anche domenica, che c'è un'assemblea regionale, proprio di non una di meno, perché essendo questa una legge regionale, insomma, interessa non solo Bologna ma un po' tutte, e sappiamo benissimo che com'è difficile accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, è difficile accedere appunto ai metodi contraccettivi, a tante cose. Sicuramente saranno tutte rivendicazioni che porteremo in piazza l'8 marzo, quindi c'è tanto lavoro da fare, ma ci siamo già attivate. Bene, grazie mille. Grazie a voi.